il sanguagliocchi, il ghiaccio nelle vene, odio nel mio cuore. Mi ferisco ma non piango mai, con le spalle al muro. Non hai modo d'uscire, amore nella mia mente, ma questo non lo saprai mai. Il sangue agli occhi, il ghiaccio nelle vene, odio nel mio cuore. Mi ferisco ma non piango mai, con le spalle al muro. Non hai modo d'uscire, amore nella mia mente, ma questo non lo saprai mai. Ho visto notti di dolori, giorni allo stesso modo. Tento ad andare dove riesco ad arrampicarmi ma cado. Io so quello che non ti vogliono dire e perciò non ti posso mentire. Spera solo di essere a prova d'inferno, perché la vita non è in eterno. Ed è per questo che i bar sono pieni di bottiglie rotte e le mie notti sono piene di bibbie aperte. Penso a più cose di quanto ne dimentico, classica scena di un film drammatico. Solo che questa è la realtà e sopravvive chi non ha pietà. Non ho paura e non avrò la cattiva sorte, niente sarà più lo stesso e tutto ciò che sai tienitelo dentro adesso. Il sangue agli occhi, il ghiaccio nelle vene, odio nel mio cuore. Mi ferisco ma non piango mai, con le spalle al muro. Non hai modo d'uscire, amore nella mia mente, ma questo non lo saprai mai. Il sangue agli occhi, il ghiaccio nelle vene, odio nel mio cuore. Mi ferisco ma non piango mai, con le spalle al muro. Non hai modo d'uscire, amore nella mia mente, ma questo non lo saprai mai. Stanno arrivando giorni più freddi e tu non li affronterai. La ragione nella rima, hai camminato su ciò che è sacro, ora vedo lontano la cima. Tutti corrono nel tentativo di giudicarsi il trono, io butto giù un pezzo cercando di abbassare il tono. Ci sono dei posti in cui devo andare, c'è della gente che dovrà pagare. Pensa ad una scena perfetta, pensa al mio nome sui giornali, pensa a me mentre comincio a far casino, pensa a me mentre divento il numero uno. Adesso pensa a me che torno indietro. Se potessi iniziare la mia vita da zero, saprei riconoscere un vero amico per davvero. Il sangue agli occhi, il ghiaccio nelle vene, odio nel mio cuore. Mi ferisco ma non piango mai.